anni, io ti scrivo con ghiaccio nel cuore. Ogni volta che siamo distanti, il tempo che passa non sembra passare. Ho visto dalla guerra il fango, la genesi di un nuovo regno. Ho colto nel gelo del tempo una rosa che cresce su un prato d'inverno. Tutte le volte che sono insieme a